U-Zone. Incontro con gli europarlamentari. Nome: Herbert. Cognome: Dorfman. Età: 47 anni. Nato a? Presanone. Eletto in? Nord-Est Italia. Con quanti voti? 93.000. Partito politico: Südtiroler Volkspartei. Gruppo politico: Partito Popolare Europeo. Segni particolari: Nessuno, direi. Quante lingue parla? Per adesso solo 3, sto imparando il francese. Competenze europee? Io ho lavorato a lungo nel settore della politica agricola comune. Benvenuto nella U-Zone di Radio 24 da Silvia Bernardi. Abbiamo scongiurato la chiusura del Brennero. Cosa comportano in termini economici le chiusure delle frontiere interne? Per noi nel Sud Tirolo la chiusura del Brennero sarebbe soprattutto un problema politico, perché abbiamo lavorato a lungo e stiamo lavorando per l'apertura dei confini, o almeno per rendere invisibili i confini, visto che è un confine molto particolare per una minoranza linguistica come quella tedesca vivente in Sud Tirolo. Ma è chiaro che anche una riflessione economica, basta pensare al turismo sud tirolese che chiaramente soffre. Se il turista austriaco e tedesco sa che quando in questo periodo va a fare un weekend nel Sud Tirolo sul lago di Garda, ritornando deve aspettare magari al confine del Brennero, poi di nuovo al confine austriaco-tedesco, quindi probabilmente starà a casa, e questo per noi che viviamo soprattutto anche dal turismo è un grande problema. Multilinguismo, risorsa o limite per una vera Unione Europea? Multilinguismo è sicuramente spesso difficile, perché noi non siamo un paese come gli Stati Uniti d'America dove tutti parlano la stessa lingua. Io sono convinto, anche appartenendo proprio a una minoranza linguistica che vive in Italia, che il multilinguismo e le lingue in Europa siano una grande ricchezza per l'Europa. E l'Unione Europea, se vuole aver successo, sicuramente non può essere un paese dove tutto è uguale per tutti, quindi dobbiamo mantenere le nostre culture, dobbiamo mantenere anche le nostre lingue, e sotto questo punto di vista io penso che la tutela del multilinguismo sia una cosa molto importante per l'Unione Europea. Si sente più italiano, tedesco o europeo? Culturalmente è chiaro che appartengo al gruppo linguistico tedesco, quindi anche alla cultura tedesca, poi però se parliamo di nazionalità mi sento soprattutto sudtirolese e europeo. Il suo motto? Il mio motto è non pensare solo alle cose, ma pensare e poi farle. Tra 10 anni l'Europa sarà? Non lo so, però io spero che sia veramente una comunità, un'unione che lavora a vantaggio dei 500 milioni di persone che vivono in Europa, e che crea veramente una grande comunità che ha anche un'importanza a livello mondiale e che comunque è in grado di migliorare la vita di noi tutti. U-Zone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus.